Bologna e dintorni. Come va il mondo? Sabato 15 febbraio, puntata numero 18 per Bologna e dintorni. In queste settimane il governo italiano è stato a dir poco scatenato, non ha sicuramente perso tempo e non è rimasto con le mani in mano. Parliamo naturalmente delle vicende legate al caso Al-Masri, il capo della polizia giudiziaria libica, responsabile della prigione libica di Mitiga, destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale, rimpatriato con un volo di Stato. L'altra vicenda che ha tenuto banco è quella dei centri in Albania costruiti, realizzati dopo il protocollo siglato dal governo di Giorgia Meloni e da quello albanese di Edi Rama. Al-Masri è stato, come dicevamo, rimpatriato con un volo di Stato nonostante fosse destinatario di un mandato di cattura internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità. Il 5 febbraio, ormai lo saprete, si è tenuta in Parlamento un'informativa dei ministri dell'interno Piantedosi e della giustizia Nordio, era assente Giorgia Meloni, con conseguente strascico di polemiche da parte delle opposizioni. I ministri Piantedosi e Nordio sono stati chiamati a rispondere del rimpatrio del generale Al-Masri, e in questa occasione Nordio si è addirittura scagliato, anziché fare un passo indietro, ha fondamentalmente attaccato frontalmente la Corte Penale Internazionale, rea a suo dire di violazioni procedurali, quindi fondamentalmente di aver emanato un mandato di cattura in qualche modo viziato da un punto di vista formale. L'ultimo tassello di questa vicenda è l'apertura di un fascicolo da parte della Corte Penale Internazionale sull'Italia. Evidentemente la Corte vorrà capirne di più. Il nodo della questione naturalmente è quello del ricatto a cui sarebbe stata sottoposta l'Italia, ovvero rilasciare e rimpatriare Al-Masri per scongiurare un flusso di migranti che in risposta si sarebbe potuto realizzare per mano delle forze libiche. Più recentemente il quotidiano Domani ha riferito di pressioni esercitate da gruppi paramilitari libici sul governo italiano, naturalmente sulla diplomazia italiana, per il rilascio di Al-Masri. La posta in gioco e quindi la contropartita è stata la garanzia della sicurezza del Green Stream, ovvero il gasdotto costruito e gestito da Eni, che trasporta gas dal paese nordafricano verso l'Italia. L'altra vicenda, l'altro nodo che ha tenuto occupate le cronache di questi giorni è quello dei centri in Albania. Nel corso di queste settimane i tribunali italiani si sono espressi più volte dichiarando illegittime alcune pratiche, quindi le scelte del governo relative non alla costruzione e realizzazione dei centri in sé, ma al funzionamento e quindi alle attività legate al transito e alla permanenza dei migranti in questi centri. Anche in questo caso il governo non ci ha pensato due volte, invece che fare di nuovo un passo indietro è andato avanti per la sua strada, annunciando ipotesi di trasformare i centri in Albania in centri di permanenza per il rimpatrio. Questo al momento rimane soltanto un'ipotesi, naturalmente. Piantedosi alla Camera ha detto che comunque le operazioni e quindi il funzionamento dei centri in Albania andranno avanti come pianificato. Intanto è di questi giorni la notizia della interruzione disposta dalla cooperativa Medio Hospes, che gestisce il funzionamento all'interno dei centri in Albania. La cooperativa Medio Hospes ha appunto annunciato di aver interrotto il rapporto di lavoro con gran parte dei suoi dipendenti. Pare quindi che, insomma, dei centri in Albania non ci sia molto bisogno in questo momento, e se non altro il lavoro è poco. Di questo possiamo soltanto rallegrarci. Il quadro che si presenta davanti a noi è quello in cui quindi convivono illegittimità giuridiche piuttosto rilevanti sia in tema di diritto interno che in tema di diritto internazionale, scelte politiche di dubbio gusto, se così vogliamo dire, ma tutto questo è davvero ben poca cosa di fronte alla tragedia che si sta consumando per meri interessi di bottega politica, propaganda e anche populismo sulla pelle e sulla vita dei migranti, non solo in Italia purtroppo. Per capirne di più vi chiedo di pazientare qualche minuto e di risentirci dopo una breve pausa musicale. Gente di mare che se ne va dove gli pare, ma non qua, a rubarmi il lavoro in questa giungla, e infrange il mio sogno che era aprire un bangla, un bangla. Niente di male se resti qua, ma dai non parlarmi più di dignità. Sotterriamo rifiuti dove nascono i fiori, 1,50 euro l'ora e dopo muori. Ma fuori, ma muori, là fuori che qui sei. Sei in un paese meraviglioso, questo è un paese meraviglioso. Sei in un paese meraviglioso, questo era Giancane, bentornate e bentornati. In queste settimane il governo italiano non ci ha fatto annoiare, purtroppo gli argomenti di cui ci troviamo a parlare sono tutt'altro che divertenti e riguardano il caso del capo della polizia libica al-Masri e quello che sta accadendo ai centri di detenzione e di permanenza dei migranti in Albania voluti dal governo Meloni. Per approfondire l'argomento di oggi siamo in collegamento con Luca Masera, professore di diritto penale all'Università di Brescia e membro dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Buongiorno Luca. Buongiorno, buongiorno a voi. Dunque, io non perderei altro tempo e andrei direttamente alla prima domanda, che riguarda, come anticipato, il caso al-Masri. Il capo della polizia giudiziaria libica, accusato di essere, diciamo, un mandante di torture carceriere dei migranti in transito dal paese nordafricano. Da settimane il caso di Al-Masri è al centro delle cronache, lo sappiamo, e dal rimpatrio con un volo di Stato all'apertura in questi giorni di un fascicolo sull'Italia da parte della Corte Penale Internazionale, ci aiuti a capire meglio lo sviluppo della vicenda e i risvolti anche e soprattutto in termini giuridici della vicenda. È una vicenda molto complessa, appunto, come già lei ha accennato, tutt'altro che conclusa, anzi direi che è una vicenda che ha i suoi inizi ed è una vicenda molto grave, perché vede una responsabilità molto grave del governo italiano rispetto ai suoi obblighi internazionali. Ecco, io partirei da quelli che sono i punti fermi di questa vicenda. Il punto fermo è che la liberazione di Al-Masri è stata una scelta politica del governo, in modo particolare del Guardasigilli. Quindi gli argomenti giuridici che sono stati portati dal Ministro della Giustizia, dal Guardasigilli in Parlamento su una pretesa invalidità dell'atto della Corte Penale Internazionale, in realtà sono molto molto deboli come argomenti e anzi sono inconsistenti, nel senso che il Ministro non ha il potere di sindacare gli atti della Corte Penale Internazionale, perché il Ministro, secondo la nostra legge, la legge italiana, deve semplicemente limitarsi a trasmettere gli atti della Corte alla Procura Generale di Roma, non ha un giudizio, non ha un potere di valutare la legittimità degli atti, quindi è stata una scelta politica. Non è stato un errore della Corte Penale Internazionale, questo direi che lo possiamo considerare un punto fermo, nonostante le affermazioni contrarie del Ministro, che sono davvero giuridicamente poco solide. E il problema, che credo è stato accennato ma non è stato affrontato fino in fondo, è quello di chi è il signor Al-Masri, perché tu dicevi il capo della polizia, torturatore, ma soprattutto è un torturatore che ha avuto sicuramente dei rapporti anche con le autorità italiane, perché sappiamo che le autorità italiane da anni finanziano le autorità libiche, la Guardia Costiera Libica, che secondo numerose sia inchieste giornalistiche che anche denunce presentate alla Corte Penale Internazionale, milizie libiche che sono sostenute dal nostro governo. Il problema è che il signor Al-Masri era probabilmente depositario di informazioni che potevano coinvolgere anche i nostri vertici istituzionali, ed è questo il problema che andrebbe davvero affrontato fino in fondo, che noi in questi anni abbiamo collaborato con delle vere e proprie milizie che operano torture, rapimenti, omicidi dei migranti nei campi di detenzione, che sono a tutti gli effetti, lo sappiamo da anni, dei campi di tortura. Ecco, questo è un problema che credo andrebbe più sottolineato e lo è stato finora molto poco nel dibattito pubblico, anche nel dibattito in Parlamento, perché è un problema che coinvolge non solo questa maggioranza, ma anche le maggioranze del passato, perché questi rapporti con la Libia, come ben sanno gli ascoltatori, sono iniziati con Minniti e sono proseguiti con i diversi rinnovi del memorandum, che prevedono proprio forme di collaborazione con soggetti come la Guardia Costiera Libica, che sono imputati per gravi reati. Quindi questo è un problema che credo andrebbe affrontato. E poi il problema giuridico, che tu già accennavi nel tuo intervento, la Corte Penale Internazionale adesso ovviamente vorrà verificare che cosa è successo e quindi si aprirà una sorta di procedimento rispetto alla mancata esecuzione d'arresto. E questo potrà vedere in futuro la responsabilità dell'Italia. Non vedo tanto una responsabilità dei singoli ministri, perché l'idea di una responsabilità penale, si parlava di questa denuncia, è poco probabile che abbia sviluppi, anche perché per i reati ministeriali è prevista l'autorizzazione del Parlamento, che questo Parlamento ovviamente non concederà mai, però è invece più probabile, più plausibile che l'Italia sia chiamata a rispondere in quanto Stato per l'inadempienza dei propri organi di fronte a un obbligo preciso che avevano, quello di consegnare il signor Al-Masri alla Corte. Ecco Luca, l'altro fronte aperto in tema di migrazioni è quello dei centri in Albania, come anticipavamo, centri nati da un accordo tra il governo di Giorgia Meloni ed Edi Rama, centri che sono già stati al vaglio, operazioni che riguardano i centri in Albania sono state già avvagliate dai tribunali italiani, considerate legittime. adesso è al vaglio del governo un'ipotesi di trasformazione dei centri in CPR. Ci aiuti a fare chiarezza anche su questa vicenda? Per quanto riguarda i progetti del governo, è difficile fare chiarezza perché credo che non sia ancora stata fatta chiarezza tra gli uffici legislativi che devono fare queste proposte, cioè si sentono sui giornali ricostruzioni diverse. Direi che comunque un dato da sottolineare è che quale che sia effettivamente la proposta di modifica che il governo vorrà portare avanti, presuppone un accordo con l'Albania, perché il protocollo italo-albanese non prevede la creazione di CPR con soggetti trasferiti dall'Italia in Albania. Quindi mi sembra un po' prematuro la ricostruzione della stampa per cui si sta preparando un decreto legge, perché un decreto legge non vedo come possa superare il problema di un previo accordo con l'Albania. Quindi tutti questi progetti futuribili bisogna vedere in cosa si concretizzano e se saranno meno accettati dal partner albanese. Sulla stampa si vedevano emergere le prime perplessità, sembra, in ambito albanese di un cambio di questo protocollo, anche perché è in corso una campagna elettorale. Quindi è tutta una questione da vedere, ma confrontiamoci con il dato attuale. Il dato attuale è che i centri albanesi sono stati fino ad ora sostanzialmente ritenuti illegittimi dai tribunali e dalla Corte d'Appello di Roma, che si sono espressi per una questione relativa ai paesi sicuri. Credo che gli ascoltatori avranno sentito, perlomeno i più interessati a queste vicende, che il tema è stato quello che la procedura prevista per i centri albanesi presuppone che i soggetti vengano da paesi sicuri e secondo il Tribunale, la Corte d'Appello di Roma, il Bangladesh e l'Egitto da cui provenivano questi soggetti non erano paesi sicuri nonostante la definizione come paesi sicuri da parte del governo. Ecco, il tema è al momento all'attenzione della Corte di Giustizia europea, quello della possibilità dei giudici di valutare la natura di un paese come sicuro. Però, e questo è il tema di cui anche qui forse sarebbe opportuno parlare, sembrerebbe che la Corte di Giustizia debba decidere se sono meno legittimi i centri in Albania, ma non è affatto così, perché se anche la Corte di Giustizia dicesse che i giudici devono attenersi alla nozione di paese sicuro fornita dal governo, non è affatto detto che i centri albanesi siano legittimi, perché ci sono altri profili di illegittimità che i giudici non hanno ancora affrontato, perché la questione della provenienza del paese sicuro è una questione preliminare rispetto alla valutazione nel merito dei centri albanesi, ma dei problemi ci sono. Il primo problema, anche forse quello meno tecnico, è il rispetto del diritto di difesa, perché centri in Albania sostanzialmente i soggetti che sono detenuti non hanno la possibilità di un rapporto con il difensore, un rapporto diretto con il difensore. Pensate che la procedura prevede che di fronte a un diniego della protezione internazionale il soggetto abbia 7 giorni di tempo per fare ricorso davanti ad un giudice. Ecco, questi soggetti in Albania non hanno la possibilità di rivolgersi a un avvocato di fiducia, non hanno un'informazione completa sui loro diritti, e in 7 giorni pensare di recuperare un avvocato e riuscire a organizzare una difesa rispetto a una decisione di diniego è in sostanza impossibile. Questo è un profilo molto serio di illegittimità dei centri che potrà emergere in futuro. Quindi sembra un po' riduttiva questa ricostruzione per cui la Corte di Giustizia dirà se il protocollo, la Corte di Giustizia può dare la pietra tombale se dice che quei paesi non sono sicuri o i giudici possono definirli come tali, ma se la Corte di Giustizia invece apre a una definizione governativa dei paesi sicuri, rimangono molti altri problemi di legittimità. Sulla base di queste premesse ti chiedo telegraficamente, il governo è riuscito nell'ardua impresa di coniugare un grosso, diciamo, coagulo di contraddizioni politiche con delle illegittimità da un punto di vista giuridico? Sì, diciamo che per quanto riguarda perlomeno la questione dell'Albania è sembrato quasi una scelta consapevole del governo di adottare delle soluzioni che poi i magistrati non potevano che bocciare, perché dopo quella sentenza della Corte di Giustizia di ottobre era pacifico che i magistrati non avrebbero convalidato i trattenimenti in Albania. E tuttavia lo si è fatto lo stesso. E allora viene a chiedersi perché. Perché il governo è andato avanti, si è ostinato a procedere sapendo che erano procedure illegittime. E la risposta può essere, a mio avviso purtroppo è quella più corretta, di una volontà di portare avanti provvedimenti illegittimi per poter poi attaccare i magistrati, perché è quello che è avvenuto in relazione alle vicende albanesi. si procede legittimamente, e quando i magistrati fanno presenti le legittimità li si attacca dicendo che sono degli oppositori politici, così portando avanti un po' la narrazione, per usare un termine di moda, la narrazione per cui il governo ha una soluzione ma i magistrati si oppongono. In realtà non è così, il governo non ha nessuna soluzione legittima, soluzioni pasticciate, e poi stiamo parlando solo della legittimità, ma se parliamo dell'efficacia di queste misure si apre un'altra pagina ancora più imbarazzante per il governo, perché il senso di spendere centinaia di milioni per portare delle persone in Albania è tutto da dimostrare, tanto che è in corso un'inchiesta dalla Corte dei Conti proprio per l'uso nelle risorse pubbliche in un progetto che non ha senso. Ricordiamoci che qualche componente di questo governo qualche anno fa lamentava la spesa di 35 euro al giorno per i migranti, ecco, questo la dice piuttosto lunga. Luca, un'ultimissima domanda, so che hai ancora poco tempo, ampliando un po' il respiro di queste vicende e di questo argomento. Sappiamo che dopo l'insediamento di Donald Trump non ci avrà sorpresi, sicuramente è cominciata, si è come dire, amplificata, si è intensificata la guerra ai migranti che è in corso negli Stati Uniti. Abbiamo certamente, diciamo, presente davanti agli occhi i video piuttosto crudi, no? Dei rimpatri, quindi anche la spettacolarizzazione di questo tipo di politiche, dei rimpatri dei migranti illegali presenti sul territorio statunitense, anche il premier, peraltro laburista, quindi tecnicamente di centrosinistra del Regno Unito, Starmer, vorrebbe fare la stessa cosa. Intanto i centri in Albania già mesi fa hanno incassato il placet, l'appoggio, l'approvazione della presidentessa della Commissione Europea Ursula von der Leyen. È in corso una guerra da molti anni nei confronti dei migranti, ma oggi questa guerra sembra intensificarsi sul piano globale. Qual è il tuo punto di vista su questo punto? Dopo questa introduzione è difficile essere ottimisti effettivamente, ma è una ricostruzione della tua assolutamente corretta. Sicuramente siamo in un momento, se ci si pone nell'ottica della tutela dei diritti dei migranti, un momento terribile proprio a livello globale. In America ovviamente, come sempre, no? L'America ci precede con gli eccessi, ecco, quegli eccessi proprio di violenza esibita che si vedono negli Stati Uniti. Spero, mi auguro che l'Europa abbia una cultura giuridica un po' più matura che le consenta di non arrivare a quegli eccessi, anche se probabilmente non ci siamo così lontani, perché se guardiamo quello che succede alle frontiere dell'Europa, le scene drammatiche non mancano. Io credo che comunque non bisogna rassegnarsi a questa ricostruzione dell'immigrazione solo come un pericolo e solo come un'offesa da cui difendersi. Bisogna insistere nel ribadire quella che è la portata storica di un fenomeno che, se gestito in modo razionale, può essere un arricchimento. In questo momento stiamo andando sempre nella direzione, ormai da anni, nella direzione esattamente opposta, di collaborare con torturatori per evitare che i migranti arrivino, oppure per spedirli all'estero in violazione della normativa internazionale. Il quadro è sicuramente non confortante, ma credo che non si possa che continuare a prospettare una visione diversa dell'immigrazione. Bene Luca, io con questo tuo invito a riguadagnare un po' tutti, a rivendicare anche un po' più di umanità, credo che possiamo anche salutarci. Però voglio ringraziarti moltissimo per il tuo contributo e il tempo, davvero per averci aiutato a fare chiarezza in questo quadro veramente molto molto buio e tetro. Grazie mille Luca Masera. Grazie a voi. Noi ci risentiamo il prossimo sabato in FM online oppure su app, l'emittente la conoscete già, è Radio Città Fucito. It will be 11, 24, and 50 seconds. At the third stir, it will be 11, 25. This is the British Broadcasting Corporation. At the third stir, it will be 55, otherwise variable 4, mainly normally in the southeast. A happy new year to you. At the third stir, it will be 11. 25, precisely. good night, everyone. Lie with me now. Under lemon tree skies, show me the shy, slow smile you keep hidden by warm brown eyes. Catch the sweet hover of lips just barely apart. Up by the sea.